e edifici più alti l'isolamento è poco efficace. È poco efficace. Mentre per interventi con controventi dissipativi... ecco, controventi, cosa si intende? Quando parla di... intende mettere delle X praticamente metalliche più delle volte in corrispondenza di pareti esistenti oppure andando a chiudere spazi tra pilastri e travi. E questi a volte si mettono addirittura in facciata. Quindi intervenendo esclusivamente dall'esterno, se si fa un costo in facciata è un intervento che di nuovo potrebbe costare sull'ordine dei, sempre stima molto approssimativa, 1000 euro a metro quadro, questa volta di facciata dell'edificio. Ecco, comunque sono interventi abbastanza appunto impegnativi dal punto di vista economico, anche se soprattutto questi delle sospensioni molto efficaci. Sugli edifici nuovi non c'è questo problema economico particolare. Su un edificio nuovo no, è un incremento di costo che cuberà per l'1-2% rispetto a un edificio non isolato. Benissimo, mentre intervenire sull'esistente è complicato e si fa pochissimo, anche per ragioni di costo. E allora, adesso ci fermiamo, ma domani riprendiamo la nostra conversazione e raccontiamo tutta una serie di altre tecniche un po' più economiche che però, diciamo, se venissero applicate largamente darebbero forse non gli stessi benefici, ma comunque dei grandi benefici. Grazie Riva per il momento. Buonasera. Appuntamento a domani.